un'ondata di ombre in fuga dalla stanza, sugli occhi un guanto di luce, accarezzai l'idea di lei in lontananza, signora delle ore scure, dolci colline intorno a muschio vellutato, misteri oltre le cime, furtivo come un gatto io mi son lavato, vecchio compagno che aspetto il mio animaletto, sono più grande ed ho dormito più di lei e del suo cuore chiuso in cantina, delle sue guance pane caldo della mattina, di quel suo viso diamante puro, di quella schiena che le tiene l'anima stretta al sicuro, ti succhierei per ore più cioccolatino nella bocca senza mai mandarti giù, signora delle ore dure, amazzonica adolescente, nuca morbido sentiero dove cammino sguardi, a guardia del suo sonno immobile guerriero, signora delle ore dure, caraibica, alba sbucciata, odore aspro di un'arancia, le ragnatele del giorno, da allontanare via da lei con la mia lancia, ma c'è una vada accesa, no è solo il sole, solo di sole se riuscissi a vivere, dei suoi capelli, alghe del mare, di quei suoi occhi olive dolci, mandorle a mare, di quelle brune nomadi dita, delle narici Dio le benedica e lì, piccolo chicco di caffè, tu non mi devi sempre credere, ma sempre credi in me, non voglio che tu sia un ostaggio in questo disperato viaggio, l'agnello messo sull'altare del mio villaggio di fumo, che tu sia solo un tatuaggio su questo petto di selvaggio, un flipper preso per i fianchi a farsi coraggio e uomo tra quelle braccia colme di seno, su quelle gambe rami forti, umido fieno, sopra il suo corpo preso ai pittori, su quella bocca che qualcuno le comprò al banco dei fiori, e fu così lei dentro un sogno, lei stessa un sogno, una vaghezza, io le vegliavo la purezza dell'impossibile, il suo cameo musicista ritrovò, la musica sua sola sposa, la musa allora ritornò al suo museo.